24 mattino di Alessandro Milan. E aggiungo una cosa ancora. I would like to add one more thing. Sure. I consider that the flag of United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy. Thank you, sir. His English is very good. And now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way. La vedo di buon umore. Dopo 5 colpi di Stato bisogna ancora essere ottimisti, sì, reattivi, perché reattivi. Altrimenti ci si deprime troppo. Il 5 Stelle con la Lega. Ci crede? Le manderò delle cartoline dall'estero dove mi recherò immediatamente. 2, 3. Grazie Presidente. No, mi ha portato qui un cane. Lancio un altro appello. Tutte le famiglie che non hanno un animale d'affezione se ne dotino, perché sono gli amici più veri. Much, much more. I did it my way. Perché sanno farsi capire senza proferire parola. Perché sanno darci un amore vero e profondo. Perché se noi impareremo ad amarli come meritano, ci sentiremo più vicini a Dio. Madre Teresa di Calcutta. Grazie Presidente, adesso parliamo, introduciamo. Signori, si è presentato con Dudu a Porta a Porta, un Dudu che effettivamente quando Berlusconi teneva in braccio si dimenava per andarsene dicendo e pensando: ma dove minchia mi hanno portato qua? E vabbè, Dudu e Berlusconi, c'è la foto, l'ho messa anche sul mio profilo Twitter, Alino Milan. Eh sì, è tornato Berlusconi, ha detto anche altre cose, in gran forma, in gran spolvero. D'altronde 5 colpi di Stato sono cose che abbatterebbero un bisonte, ma non Berlusconi. 5 colpi di Stato dove? Ah, 5 colpi di Stato in Italia, va bene. Allora, sono le 6:32 minuti, signori. C'è oggi Filippo Aureggi in regia. Facciamo, la regia è a estrazione, qui a 24 mattino. Ogni giorno verso le 5 del pomeriggio abbiamo mandato l'alpino Peter Bescapè in regia. C'è il sorteggione in sala mensa per la regia. Allora, insieme a Filippo Aureggi, Lorenzo Nespoli, e insieme a loro, signori, a Babato ci sono 20 gradi e 7, 20,7, Babato. A Lipari 24 gradi e sole, da mesi purtroppo, ci scrive Marco. In tangenziale ovest a Milano ci sono 25 gradi, signori, mentre a Parma 22 gradi. La bellissima è maltrattata a Taranto, stamattina baciata da 22 gradi, ci fa sapere Andrea. Mentre è arrivato l'inverno a Perth, da dove Chiara ci scrive come tutti i giorni, 17 gradi, pioggia, è un'immagine all'Australia, cioè, è arrivato l'inverno, giustamente lì. Lorenzo, scusa, Merlengo, 20 gradi, Merlengo, 20 gradi. Rescaldina 21 gradi e 4. Merlengo. Treviso. Scusate, sappiate. San Daniele 24 gradi, viva il prosciutto. Ciao da Gabri anche. E allora, signori, a Colle Brianza 21 gradi. Ci fermiamo qui. Dai, dobbiamo salutare Silvia Brasca. Dobbiamo, vogliamo, con piacere. Silvietta, buongiorno, come stai? Ciao. Bene. Tutto a posto? Tutto a posto. Sei rimasta spiazzata da Dudu? No. Mamma mia. No, ma perché mamma mia? Guarda, povera creatura, fai la brava. Guarda che... Sì, no. Ci mancava Dudu, basta. Dudu, gli animali, basta. No, gli animali basta. Sono quelle frasi che potrebbero inchiodarti. Lo so. Ma c'è un limite anche sugli animali. Va bene. Allora saluto colui che avrà scrutato ogni singola ruga, ogni singola mossa, ogni singola movenza di Silvio Berlusconi per cercare di immortalarlo, il nostro Vincino. Ben ritrovato, Vincino. Come sta? Come va? Ho saltato, non l'ho visto. Non l'hai visto? Cioè, non hai visto che Berlusconi teneva Dudu? Dudu si dimenava come un'anguilla. Salto Vespa in generale. Salti Vespa. Le mie preferite. Lo ammetto anch'io. È troppo tardi per me. Sì, poi sono già proprio steso a quello. Sì, guarda, figurati, siamo in due già stesi, però magari al mattino. Va bene, comunque dai, è il momento di aprire il Parlamento perché ci sono tante notizie da raccontare, chi lo sa. Allora ragazzi, se uno esce, prende un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Io non capisco più qual è la notizia politica, perché fino a 10 giorni fa era... Si va a votare col secchiello e la paletta in mano. Per tutti gli italiani si prevedeva un agosto davvero all'insegna di santini elettorali, di comizi, eccetera. Poi ora non si va più a votare. E quindi adesso cos'è, Vincino? Un trascinamento blando, stanco. Che succede? Una legislatura morta, tutto morto. No, c'è un premier proprio di stanchissimo, di una debolezza incredibile. Gentilone, ogni giorno al Senato là, mi minacciano cose. No? Niente, siccome sono tutti deboli, sono tutti deboli, sì. Non riescono a. Non c'è uno più forte, dice basta. Esatto, sono tutti deboli, quindi si reggono a vicenda così. Sì, andiamo avanti stancamente, come due ubriachi che si appoggiano spalla a spalla, camminano. 40 milioni di ubriachi. 40 milioni, ma un po' storti. Mamma mia, sì, è una legislazione. Io avevo quasi sperato, giusto per dire, dai, almeno c'è uno sprint, c'è una campagna elettorale in arrivo. Dava un senso a quest'estate. Dava un senso all'estate, sì, esatto. Invece nisba, come si suol dire. Quindi la notizia politica del momento qual è, Vincino? Perché c'è niente, che si va in agonia, si continua. Si va in agonia. Vabbè. Insomma, non è che boccheggiante, va bene. Cara Silvia, aiutaci tu. Perché c'è qualcuno che si sta muovendo ed è Prodi. Prodi tutti i giorni, poverino. Vede qualcuno, gli incontri sono tutti positivi. Ho letto quello con Calenda. Ottima abbondanza. Calenda che oggi avremo ospite alle 8:15. Grande assist di Silvia Brasca. Vedi che gioco di squadra. Che gioco di squadra. Questo è il gioco. Lui Donnarumma l'avrebbe tenuto. Io Donnarumma nel mio Milan l'avrei tenuto come portiere. Sì, ma lui tiene sempre, terrebbe sempre tutti. Sì, come Kakà. Io Kakà non lo vendo. Elezioni venduto. Va bene. Dai. Te lo ricordi. Sì. No, è interessante vedere. Prodi, secondo me, è disperato. Sta cercando. No. Cercando di capire cosa succede lì. L'hanno dentro, soprannominato adesso Vinaville per cercare di trovare un collante nella sinistra. Vuole cercare di mettere insieme Pisapia, a Renzi, a Calenda. Ieri ha visto Calenda, appunto. Cioè, questa è la notizia più calda della politica. Questa è la notizia più calda. L'altra invece è che Di Battista era sicuro che a Vieste, non so se hai letto, che so, gli dispiace, perché dice la campagna elettorale d'estate sarebbe stata tutta per noi perché non ci sono i talk, quindi noi eravamo avvantaggiati perché a me a Vieste d'estate vengono a sentire, quindi non ci saresti stato anche tu a Vieste. Sì, sì. Ecco, era uno, ci siamo mancati. Era uno degli appuntamenti che mi ero segnato, Vieste, 12 agosto. Di Battista a Vieste. Vabbè, insomma, allora è il momento, caro vicino, di sfogarti come vuoi e come puoi. Dai, facci... Così a freddo, dai. No, facci... Allora, no, è il momento di fare la battaglia numero due, allora, secondo giorno di battaglia per la libertà di parola per padre Livio Fanzaga. Padre Livio, lo conosci, Vincino? No. Dai, padre Livio Fanzaga, è il direttore di Radio Maria, anche tu, ma... Non è manco lei tra le mie preferite, no? Cos'è che è? Non è tra le mie preferite, ma va bene, ma non è neanche tra le mie. Perché tu sei alla radio, perché devi parlare dell'altra radio, no? Ma no, ma cosa c'entra? Perché padre Livio Fanzaga è stato... Laica, no. Ma cos'è, certo? Una radio laica che mandiamo a fare in culo tutti gli altri, no? No, che non è quello il significato. Non è quello il significato di radio laica, però adesso non è quello proprio il significato. Quello potrebbe anche essere, dai. Di radio laica. Padre Livio Radio Maria, sì, vaffanculo. No, basta. No, padre Livio Fanzaga è stato censurato. No. No, dai, basta. Mi metti nei guai così. Ma tu hai detto, ce ne devo dire. Ho detto la notizia da ieri, è stato sanzionato dall'ordine. Perché ha detto... L'ordine ha dei cantari, queste stronzate qua, dai. Ecco. Vedi che sei diventato subito difensore di padre Livio Fanzaga. Come dire? No, ma io sono per l'abolizione totale dell'ordine, per la sua inutilità. Cioè che... Vabbè. Allora... Sono i grillini, gli piace l'ordine, che fanno gli esposti all'ordine. Ho visto quello scemo là di Milano della Casaleggio, dice farò un esposto all'ordine contro Calabresi, ma stati buono. Ma per favore, incontrati con chi vuoi, fate questa unione tra Lega e 5 Stelle e non rompete le scatole. Tanto sarete battuti alle urne da Berlusconi con Dudu. Oh, Berlusconi e Dudu, vabbè, insomma, io, Silvia, qua rimetti un po' di ordine. Io volevo parlare di Livio Fanzaga, ma insomma Vincino, come sai, è irrefrenabile. Non so, però anche lì un assist. Che si fa con Don Livio? Cioè, il problema di Radio, cioè, il problema di Don Livio, che non so, le antenne di Radio Maria sono atomiche, perché si sente dappertutto. Si sente dappertutto. Infatti, è incredibile, hanno un segnale che... Infatti vedi, cioè, padre Livio tranquillamente dice non mi taciteranno. Senti un po', padre Livio Fanzaga, dopo che ieri Libero ha detto che è stato censurato dall'ordine dei giornalisti. Oggi il quotidiano Libero dedica le prime tre pagine a Radio Maria e al sottoscritto con un titolo da brividi, ecco, vi leggo il titolo: zittita Radio Maria, attentato alla libertà d'opinione. Don Livio sospeso per 6 mesi dall'ordine dei giornalisti, reo di aver attaccato la Cirinna sulle nozze gay. E se volete informare su una vicenda che comunque è chiusa, state tranquilli, voglio dire, cioè per zittire me ci vorrebbe la bomba atomica, ci mancherebbe altro, insomma. Eccola lì, vedi, Silvia, l'hai citata tu, la bomba atomica, e Don Livio dice. Quindi tutte tranquille, non è una notizia neanche questa. Padre Livio Fanzaga continua a parlare a Radio Maria, siamo tutti sereni, Vincino può parlare nella sua radio laica, siamo tutti tranquilli. E va bene, allora ti devo far parlare di Virginia Raggi, caro Vincino. E vabbè, tu stai a Roma quando non sei... Ma già io ho fatto manifesti, cose... Sì. Segnato in tutti i modi. Lunedì l'edizione del Foglio era straordinaria, con un anno di Virginia Raggi, tutti i disegni di Vincino, l'hai disegnata sempre molto bene, molto... Assolutamente. Con le orecchie... No, una statua abbiamo fatto. Una statua al Foglio, dedicato. No? Ma perché? Ma qual è il problema da cittadino di Roma di Virginia Raggi, secondo te? Qual è il problema? Da cittadino di Roma? Perché è un disastro totale questa città, non è che... Cioè, sono 390 problemi. Ma è sempre... Ma ho capito, ma è sempre stato... Non è sempre stato così, aspetta, non è che... Sono stati anni in cui era meglio e anni in cui era peggio. Gli anni di Rutelli erano meglio, diciamo. diciamo. Rutelli. Obiettivamente Rutelli era stato un decente sindaco. No, gli anni di Marino erano quasi quasi simili, diciamo, anche là, perché ha fatto degli errori immani, ha fatto mezza chiusura da una parte che non doveva fare. Vabbè, gli anni della Raggi è niente, del niente totale, cioè tutto è una buca dopo l'altra, una cosa dopo l'altra, un immondizio dopo l'altra, un dopo l'altra, cioè un disastro totale. Gli autobus scoppiano per la strada, non riprende un tram e taxi. Colpa del sindaco, colpa del sindaco. Come vabbè, dire. Però Virginia Raggi ha Beppe Grillo dalla sua parte. Ma questa è una cosa ignominiosa, come dire. È una cosa, non lo so, cioè uno dice, Grillo è dalla mia parte, e questo, questo ha detto ieri, ribadendo il 7,5 che si è autodata come voto di primo anno, Virginia Raggi dice Grillo sta con me. Ho sentito Beppe, mi ha incitato ad andare avanti e continueremo a lavorare. Grazie. Punto. Silvia. Punto. Questo è. Ma io volevo sapere, ieri c'è stata la festa della musica vicino a Roma? La festa? Mia figlia dice di sì, però non lo so. Se tua figlia dice di sì, evidentemente c'è andata. È uscita di dove era la festa della musica. Non ho capito bene. Se tua figlia salutandoti e lasciandoti lì a dormire ha detto me ne vado alla festa della musica, noi supponiamo che la festa della musica ci sia stata. Io ero amico di Niccolini, no? Ed era una cosa stupenda. La Roma d'estate all'epoca di Niccolini, all'epoca di Massenzio, un'allegria. È un nostalgico. Vuole quegli anni lì. Ma non sono nostalgico, non è questione. Cioè, qua, vedo i buchi e i disastri di oggi rispetto ai fasti del passato. I fasti di Roma, quando 2000 anni fa c'erano i gladiatori. Sì, vabbè, dai, andiamo un attimo al traffico. Difeso la libertà. Aspetta, il traffico. Il primo lottatore della libertà. Spartaco, via, ciao. Il vero problema di Milan è il traffico. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Mattino. Alessa, la Jussoli non ci passerà mai. Basta piagnistei, porco cane. Lavorerò un poco. Fanzaga, come i proprietari dei cani possono fare quello che gli pare, impuniti. E Milan lo difende. Lo Ius Soli è il diritto di rifilare sole, ma quello in Italia c'è sempre stato. Ecco, con questo io, cari amici, chiudo il commento alla stampa con questa titolo di libro: attentato alla libertà d'opinione, zittita Radio Maria. Come te sto parlando. Torniamo al nostro nemico vero, che è il diavolo. Eccolo, il diavolo le fa ma non le copre, il tempo galantuomo poi le scopre. Il nemico di Don Livio è il diavolo. Il diavolo è ovunque. Forse il diavolo è anche nei disegni di Vincino. Forse perfino in qualche servizio di... perfino in qualche servizio di Silvia Brasca, secondo me. Don Livio Fanzaga qualche volta avrà scrutato e avrà trovato così le impronte del maligno. No, lo teniamo alla larga il diavolo. Signori, ma la verità è che, allora, intanto, appunto, Raggi si dà 7,5. Oggi sul Messaggero c'è un'intervista all'assessore Colomban, quello esterno, che dice: a settembre me ne vado. Così, proprio testuale: il mio compito è finito, a settembre me ne vado. Ieri non era presente neanche a un anno di resoconto, no? La conferenza stampa. No, ma Vincino prima ha detto una cosa, effettivamente, sulla quale si parla da tempo, cioè l'unione, la possibile convergenza tra il Movimento 5 Stelle e Lega, che secondo me è una roba che veramente non mi fa dormire la notte. Non so, Silvia Brasca, no? Ma no, ma non, c'è l'idea, cioè, o meglio, l'idea che possa essere possibile tutto. Ma cosa sono la stessa cosa? Ma cosa stai dicendo? Ma sì, ma dai. Ma sì, sono razzisti tutti e due. Ma sono contro, t'assicuro, guarda. Ah, vabbè, per favore, dai. Grillo è un razzista del nord, vicino Genova, di periferia di Genova, perché non è manco di Genova, no. Sì. La cosa, no, come dire. Ma a parte che c'è il non è che prendeva yogurt così, pa. Ma cosa c'entra? Silvia, di qualcosa. Capace di tutto. No. Vabbè. Sì. No, aspetta, Vincino, fammi sentire Silvia Brasca che ci dà il punto politico. Ma davvero c'è una cosa così possibile? Cioè, mi sembra. Viene freddo al cuore. Lo devi chiedere alla Aurorina la prossima volta. Chiedi a lei cosa pensa. Lei e il Molteni cosa pensa? All'Aurora Lussana. Ma no, ma sì, ma lei dice: ma no, ma te smentisco tutti, figurati. Ma certo. Ieri avevamo Salvini, l'altro ieri, ma no, ma io se mi chiamano. Aspettiamo domenica e vediamo come vanno le cose, perché è vero che tutti sono cose locali, però lì si prenderanno certe misure, si prenderanno domenica con i ballottaggi. Sì. Aspettiamo domenica e vediamo, soprattutto per il centrodestra, se con Totti e lì dobbiamo tenere un altro imbecille mentale, no, diciamo. Dai, ma no, ma sì, scusami. Ma perché? Cosa ti ha fatto Totti adesso? No, non mi ha fatto nulla, guarda. Però se tu eri l'altra volta dall'Alatella con Salvini, Salvini e Totti seduto sulle ginocchia di Salvini, e Salvini faceva aprire la bocca e chiudere la bocca. Era il suo così, guarda, così, ventriloquo. Il suo ventriloquo, vedo bene Di Maio sulle ginocchia di Salvini a fare il ne hai citato un altro, porca miseria, che vincere adesso. Dice Berlinguer, Almirante e l'ADC. Sì. Di Maio ha detto questo. I nostri modelli sono per alcuni Almirante, per alcuni Berlinguer e per altri l'ADC. Ma è per dire che basta quel tuo mondo con i partiti dove si stava a destra, a sinistra, con gli ideali. Sparavano tra di loro. No, vabbè, si sparavano. Ho capito. Ma quei tempi sono finiti, adesso è tutto un miscuglione. Non c'è più la destra, non c'è più la sinistra. Non c'è più il centro. Prendi il fucilatore dei partigiani, Almirante. Il picchiatore degli studenti, Almirante sempre. Prendi la. Dai, metti tutto insieme. La DC degli anni 50-60. Vabbè. Comunque, tra l'altro, non l'abbiamo in audio, ma Silvio Berlusconi, quella che è più forte che ha detto a porta è sull'Islam. Ha detto testuale, sì. Ha detto che perdiamo l'identità italiana con l'afflusso eccessivo di persone musulmane, anche perché l'Islam c'è chi lo intende per la pace e chi come guerra alla Maometto. Un generale che catturava gli schiavi e metà degli schiavi se li faceva assegnare personalmente. Insomma, l'ha toccata piano Berlusconi. Se fosse stata all'epoca di quando era premier, succedeva al putiferio. Invece adesso anche. Però lo si guarda conta ancora. Però su Maometto per rivedere delle robe. Vabbè. Insomma, tanto anche lui ha detto che vedrà Calenda, ma Calenda non so, ha smentito, non si capisce più niente. Questo è il momento politico. Il Macron italiano, Calenda. Esatto, questo è il momento politico del confuso che vogliamo riassumere con palette da 0 a 10. Ce l'abbiamo il buon Matteo Richetti che canta beccato dal nostro Dejan Cecnic, cioè il nostro, è il mitico di Radio Rock, che però poi mandiamo in onda anche noi, Dejan Cecnicovic. Sentite Richetti che canta, cos'è che canta? Vado al massimo? Sentite qua. Vado al massimo! Urca! Te la faccio un po', va? Sì. Vado al massimo! Ah, adesso. Vado al massimo! Vado a gonfie vele! Ma fa anche la batteria! Sì, è lui! A gonfie vele, sì! Ah, vabbè, anche un po' la voce così! A girare un'altra gonfie vele! Da Vasco Rossi, beh! Poi? Adesso arrivo! Voglio proprio vedere! Ehi! E voglio proprio vedere! Questo è sui vitalizi, E voglio proprio vedere come va a finire! Beh, dai! Bravo Richetti, bravo. Ce la fanno sudare e soffrire. Ce la fanno sudare? Dai, ma dai, la sua onesta prova, Richetti, che sui vitalizi non porterà nulla a casa. Dai. Senza frenare, voglio vedere se davvero poi si va a finir male. Tra meglio l'altro, rischiare. Richetti che oggi dichiara al giorno, giuro Silvia Braschi, in un'intervista, confido in Calenda con... te lo giuro, spero che la sinistra si metta insieme da Pisapia a Calenda. Vabbè, dai, gli do io che non c'è tempo un 7,5, un po' come a Virginia Raggi per questa prova canora. Ringrazio Vincino e Silvia Brasca del TG della 7 e ci sentiamo presto. Credo si sia appassionato anche lei alle avventure delle 5 Stelle. Poi all'inmila e lì gestisci un lanciano di Yamia. 24 mattino. Siamo qui, cari ascoltatori, alle 7:20 minuti, è il momento della lettura dei quotidiani. Ricordo che siamo anche in diretta nella pagina Facebook di Radio 24 e sul sito di radio24.it. E allora potete vedermi anche a un bellissimo spettacolo, ovviamente, lì in diretta. Siamo pronti, caro Filippo Aureggi, lì in regia? Andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a giovedì 22 giugno, intanto i titoli, le banche e le banche venete, soprattutto in primo piano per il Sole 24 Ore, banche venete, l'offerta d'intesa, il governo prepara un decreto per estendere l'uso dei 20 miliardi del salva risparmio. Anche il Corriere della Sera apre così, offerta d'intesa sulle venete. Per il Messaggero, banche, si tratta sul salvataggio. L'ente sulle banche apre anche Avvenire. Mentre il Fatto Quotidiano, sì, sulle banche, ma più sulla commissione. Boschi e Company tremano, liquidate le venete, Ghizzoni in arrivo. Banche rotte. Repubblica, una notizia politica in apertura, Forza Italia contro l'antimafia, rivedere il codice. Berlusconi sonda il PD, norme troppo dure, ma i democratici chiudono, non si cambia. Per la Stampa invece, vaccini, cambia il decreto, multe, patria potestà, verifiche, il testo sarà ammorbidito. Allo studio la riduzione della sanzione per gli inadempienti. L'ammorbidimento, insomma, del decreto vaccini in vista della riapertura delle scuole a settembre. Il Giorno apre sulla siccità, a secco è il titolo di prima pagina, l'allarme siccità. Mentre per La Verità, il piano per prenderci altri immigrati... È il progetto integrazione di Minniti che è una bomba, assicura lavoro, casa, ricongiungimenti familiari, corsi di lingue, richiamerà ancora più stranieri. Mentre per Libero 500 onorevoli Volta Gabbana e il cambio dei partiti, battuto ogni record di cambiamenti e mutazioni di casacca in questa legislatura. L'apertura invece del Manifesto è dedicata a una inchiesta sul lavoro agricolo e lo sfruttamento, braccia rubate, più di 10 ore di lavoro al giorno, pochi euro, insulti sessisti. La procura di Brindisi svela lo sfruttamento nei campi pugliesi. Però io voglio partire da quello che sta succedendo a Torino, come raccontano i giornali, perché a Torino la questione dell'ordine pubblico, che è un po' esplosa e deflagrata con la finale di Champions League, gli scontri nel senso il panico che si è generato in Piazza San Carlo, purtroppo una donna anche che è morta per un falso allarme, ma da lì sull'ordine pubblico si è aperta, diciamo, una partita che a Torino è molto sentita, soprattutto dopo che ci sono stati dei controlli, c'è stata un'ordinanza di recente contro la vendita di bottiglie dopo una certa ora. I controlli successivi della polizia che nei giorni scorsi sono degenerati in scontri veri e propri, come se fossero delle manifestazioni di piazza tra la polizia e alcuni giovani che stavano diciamo godendo della cosiddetta movida torinese. Eccolo qui, dietro front sui controlli dopo le manganellate nei locali della movida. è il titolo di pagina 4 della Stampa, ma anche Repubblica apre a pagina 2 e 3 la prima notizia con questa vicenda. 24 ore dopo le manganellate tra i Deor della Movida deflagra il tema della sicurezza a Torino, leggo dall'articolo di Lodovico Poletto sulla Stampa. E mentre il sindacato autonomo della Polizia Municipale dice che non ci sono più le condizioni per fare altri pattuglioni nella zona della Movida, l'assessore alla sicurezza Roberto Finardi fa un passo in più e dice mai più operazioni di questo tipo, ovvero mai più attività finalizzata a far rispettare l'ordinanza antivetro con la polizia schierata in assetto antisommossa. Del resto, scrive ancora la Stampa, Torino soffre da mesi di problemi di sicurezza. In 10 giorni sono stati aggrediti nell'ordine una pattuglia dei vigili che cercava di sequestrare un carrettino di birra a un venditore abusivo. Alcune volanti che hanno dovuto arretrare in zona Vanchiglia, quella delle manganellate, tra la gente che cenava tranquilla, perché contestate dai frequentatori della zona. Sabato notte invece 3 carabinieri sono stati circondati mentre sul Po i Murazzi fermavano un abusivo con un trolley di alcolici. C'è anche il problema del centro sociale a Scatasuna, raccontano i giornali, che sta evidentemente contestando queste iniziative della polizia, e tutto questo ovviamente si ripercuote sulla sindaca Chiara Appendino, che è un po' in difficoltà. Tra l'altro, a questo tema è dedicata anche la maca di Michele Serra in prima pagina di Repubblica. Scrive Michele Serra: non si coglie il nesso tra Movida e Notav, tra centri sociali e capannelli birrosi che fanno casino fino all'alba. Si leggono dunque le cronache della gazzarra in Santa Giulia Torino e relativi commenti, ma il nesso continua a sfuggire. A meno che sia una generica e comune ostilità contro gli sbirri, quella che porta la strana alleanza tra giovani molto radicali e radicalizzati e giovani solitamente alcolizzati, furibondi per l'ordinanza della sindaca contro le bottiglie di vetro. Le nostre città sono strette e molto abitate, il conflitto tra dormienti e urlanti è abbastanza inevitabile. So cosa significa aver sotto le finestre un localino molto trendy, con trendissimi trentenni che bivaccano fino alle 4, chiacchierando del più e del meno con il tono di voce di Pavarotti. Ma questa inedita alleanza tra il centro sociale con molte K nel nome e i ragazzotti con molti bicchieri in pancia è sorprendente e anche affascinante a suo modo, perché il tema è caldo. E delle alleanze si parla in politica come di un'impresa disperata. Magari un viaggetto a Torino può fornire qualche idea su come quasi dal niente può nascere un fronte ampio. Una birretta aiuta sempre. Questo è il commento di Michele Serra, l'amaca. Invece, a proposito di soldi, c'è questa notizia che ho trovato un po' sui vari giornali, sulla Stampa, sul Giorno, su Repubblica, un trafiletto, leggo dal Giorno, torna in auge la vicenda di Beppino Englaro, papà di Eluana, perché ha ottenuto dal Consiglio di Stato, dunque sentenza civile definitiva, che ha respinto un ricorso della Regione Lombardia, un risarcimento dalla Regione Lombardia, all'epoca era guidata da Formigoni. 133.000 euro, confermato il danno da risarcire a Beppino Englaro. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Regione Lombardia, che era già stata condannata al TAR, e ha ribadito: la Regione Lombardia deve dare 133.000 euro a Beppino Englaro, padre di Eluana. Perché? Perché all'epoca la Regione non si fece carico del ricovero di Eluana in una struttura adeguata per la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione col distacco del sondino nasogastrico, tanto che il papà, che aveva ottenuto dopo una lunghissima tormentata guerra giudiziaria questo diritto, è dovuto andare in una clinica in Friuli, alla clinica La Quiete, a Udine. E allora, 7 anni dopo, il Tribunale Amministrativo ha riconosciuto a Englaro il risarcimento dei danni pattuiti in quella dolorosa vicenda. Tutto confermato dal Consiglio di Stato. E allora l'assessore al welfare Gallera ora dice: daremo corso alla sentenza, si attua e dunque ci sarà il risarcimento di 133.000 euro della Regione Lombardia a Beppino Englaro. potremmo tutti chiedere conto, cittadini, tutti cittadini lombardi, potete andare a chiedere conto alla regione Lombardia, perché i vostri soldi ora saranno utilizzati così, perché non per colpa di Englaro, che ha fatto valere un proprio diritto, ma perché all'epoca fu negato a lui un diritto. E magari, insomma, questi soldi che dovrete sborsare, ognuno un centesimino, potremmo andare a chiedergli, non so, alla regione guidata allora Formigoni, non lo so, oppure niente, non facciamo niente. Ecco, intanto siamo consapevoli della notizia e di quello che è successo. Allora, siamo all'articolo che mi fa pincere della giornata. È una pagina della Verità, a firma Carlo Tarallo, che racconta di un convegno che è stato organizzato e doveva andare in scena oggi all'Università di Teramo, e che però è stato sospeso dopo le polemiche. Giustamente il sottotitolo di questa vicenda è Il paese dei cacchi. Cioè, che cosa ti hanno partorito all'Università di Teramo? Hanno fatto un convegno sui morti di Rigopiano, della tragedia, della valanga, eccetera, che c'è stata a Rigopiano, la grande nevicata. E come hanno titolato? Dei geni, evidentemente, dei creativi stupefacenti. Dalla grande calamità, una valanga di opportunità. Così, proprio una valanga di opportunità, solo che sotto quella valanga sono morte diverse persone. E infatti, quando è venuta fuori la vicenda di questo convegno con tutti i manifesti, il portavoce del comitato familiare dice: ma come può un'università denigrare il dolore di chi ha perso tutto? Il rettore che si è scusato ritirando subito i manifesti, fermando l'iniziativa. Questa locandina che sfrutta la calamità fa tornare in mente le intercettazioni di quegli imprenditori che risero durante il devastante terremoto dell'Aquila nel 2009, dicono ancora i familiari delle vittime che non nascondono la loro rabbia, l'indignazione. Non servono convegni, soprattutto con questi titoli: dalla grande calamità, una valanga di opportunità. Eccolo qua. Trovate l'articolo sulla Verità. L'Ateneo di Teramo torna a seppellire i morti di Rigopiano una seconda volta. Non è possibile una roba del genere! Vergognatevi, cazzo! State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. Alessandro Milan, l'attaccare dell'informazione. È vero, è tornato Berlusconi. È tornato Berlusconi porta a porta, tra poco lo vedremo. È una delle notizie politiche del giorno. Certamente l'altra notizia è quella che Virginia Raggi si è presentata in una conferenza stampa per un anno di mandato, un anno di sindaca a Roma, sindaco a Roma, e ha detto: Grillo è con me, ho agito in buona fede. Si è difesa dunque, ha incassato il sostegno del leader su Twitter con l'hashtag Roma rinasce. Certo, a leggere, al di là delle dichiarazioni ufficiali, alcuni retroscena, pare che covi qualche malumore all'interno del Movimento 5 Stelle su questa in difesa di Virginia Raggi. Di Battista si sfoga: le nomine errori gravi, ma lei è andata avanti. Questo è il titolo, per esempio, del retroscena di pagina 8 del Corriere della Sera. L'errore più grave di Virginia è essersi fidata di quelle persone per le nomine di Romeo e Marra. Glielo abbiamo detto tutti, ma lei è andata avanti comunque. Questo, per esempio, è lo sfogo di Alessandro Di Battista, che ragiona su quello che rischia di diventare un inciampo importante per il Movimento 5 Stelle. I big, alcuni dei big, vengono definiti un po' defilati nei confronti di Virginia Raggi. Tra l'altro Repubblica mette in pagina 4 i verbali con l'ironia di Marra su Virginia. È da esame psicologico. Sono le intercettazioni che sono finite sui giornali, intercettazioni dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, nelle quali, secondo Repubblica, emerge l'ennesima prova che Raffaele Marra ha partecipato all'iter che si è concluso con la promozione del fratello alla direzione di turismo in Campidoglio. dice a un'amica al telefono Marra: mi sta addebitando che non sono stato sufficientemente chiaro, che non gliel'ho detto 10 volte invece di 9. Parla della Raggi. Raggi mi sta dando dello scorretto, è arrabbiata perché non gliel'ho detto sufficientemente, ma non me l'ha fatto capire bene, non me l'ha detto con chiarezza, con la chiarezza che mi serviva, mi doveva svegliare. E vabbè, la prossima volta faccio un esame psicologico per capire come te lo devo dire. È una follia, guarda. Così Marra parla al telefono con l'amica Concetta della nomina, così l'ex braccio destro di Virginia Raggi. Tra l'altro, Virginia Raggi, che ieri si è presentata nella riunione con tutta la giunta schierata, non c'era però Massimo Colombana, assessore alle partecipate del Comune di Roma, e Massimo Colombana rilascia un'intervista al Messaggero nella quale peraltro dice parole di elogio nei confronti di Virginia Raggi, dice è una donna davvero in gamba, lavora con ritmi altissimi, ce la sta mettendo tutta, ma annuncia anche: a settembre me ne vado. L'assessore Massimo Colombane dunque perderà un nuovo pezzo della giunta Virginia Raggi. Dice: il mio è un assessorato di scopo, in questa intervista di Simone Canettieri. Quindi un assessorato a tempo. Sto completando tutta la riorganizzazione della governance delle partecipate. Il gruppo di lavoro va avanti spedito, il dossier è a buon punto, presto lo presenteremo. Il sindaco lo sa, sono stato chiamato per una missione. A settembre ritengo che il mio compito potrà dirsi esaurito. Nessuno è indispensabile, tutti siamo utili. E quindi dice Colomban, annuncia: me ne vado. Dicendo anche: ci vorranno anni per cambiare sul serio Roma, da fuori non si può capire. Riguardo al 7,5 che si è autodata Virginia Raggi, dice Colomban: non mi do mai voti alti, ma sempre bassi, perché sono un perfezionista e così riesco a ottenere il massimo. Comunque, se si è data un 7,5, ci sta, si è data un voto di incoraggiamento. Così l'assessore Massimo Colomban, ieri assente per motivi di lavoro, ma che annuncia: lascio la giunta a settembre. Dicevamo invece di Berlusconi. Berlusconi è tornato, è andato a Porta a Porta, è tornato in TV. D'altronde aveva annunciato questa campagna di presenze in TV, sui giornali, ha fatto interviste anche sul TG1, TG5, è in campo per le amministrative. Non è andato da solo, tra l'altro ha portato Dudu, c'era Dudu in onda Porta a Porta ieri. Gran finale scoppiettante quando si è presentato con Dudu, che per la verità sembrava, se vedete le immagini, un po' fuori, cioè insomma si muoveva come un'anguilla, si dimenava per andarsene, per dire ma perché mi avete portato in questo posto. Comunque, questo Berlusconi che dice: possiamo avere il 30%, non bisogna montare casi sui leader del PD, sulla Boschi, non c'è il caso dei padri di Renzi e di Boschi, quindi un assist, come dire, al PD, e invece individua nel nemico il nemico politico nel Movimento 5 Stelle. Anni fa mi candidai contro il comunismo, ora il pericolo numero uno è il Movimento 5 Stelle, se vince espatrio, così Silvio Berlusconi, che tra l'altro ha detto delle parole molto dure sull'Islam. Parole che, se fosse stato premier all'epoca, avrebbero suscitato forse un po' più di reazioni. Infatti molti giornali che parlano della uscita di Silvio Berlusconi si concentrano proprio su questo: troppi islamici, lo ius soli è pericoloso, e questo è il titolo più sfumato di Libero. Ma sentite il Messaggero: Maometto un guerriero, troppi islamici un rischio. Sapete che sono molto suscettibili alcuni quando si toccano questi temi. E Silvio Berlusconi ha detto: ricordiamoci che Maometto fu un generale che conquistava le città e catturava gli schiavi, e metà degli schiavi se li faceva assegnare personalmente. Pongo l'attenzione su quello che disse anni fa un famoso islamista: conquisteremo l'Occidente con il ventre delle vostre donne. E poi troppi islamici non vanno bene, cioè c'è chi intende l'Islam per la pace, ma anche chi lo ritiene come guerra, come Maometto. Così Silvio Berlusconi ieri a Porta a Porta. Tra l'altro Berlusconi che ha detto: incontrerò Calenda, ma Calenda ha un po' smentito almeno dal ministro dello sviluppo economico, hanno smentito. Calenda però ieri ha incontrato Prodi, che ha detto è stato un incontro ottimo e abbondante. Calenda dice anche Matteo Richetti del PD in un'intervista sul Giorno: vorremmo una sinistra che includa anche Calenda. Vabbè, insomma, tutti che tirano un po' per la giacca Calenda, che sarà nostro ospite alle 8.15. Era tutto un assist per dire questo, caro Mauro Beazza, vedi cosa non si fa per autopromuoversi, ma davvero è un po' su tutti i giornali. Mauro, buongiorno. Annunciava che Calenda incontra Alessandro Milan. Sì, che e Oscar Ciandino, certo. Sì. Mi sembrava la notizia da sottolineare questa. Sì, è chiaro. Cioè, Alessandro, tutto bene? Tutto a posto. Ok. Sei finito in qualche lista della Guardia di Finanza? Come è possibile? Me lo chiedo anch'io. Oggi, guarda, giornatona con il Sole 24 Ore per la voluntary disclosure del nostro amico Angelino. Perché? Allora, innanzitutto prosegue la guida alla manovra, stai conservando religiosamente le pagine che tutti sono tutti fascicoli, guarda, c'ho già il libro per l'estate. Va benissimo, allora fai bene, studia che ti farà bene. Oggi parliamo delle varie sanatorie, per così dire, la sanatoria delle liti, le cartelle e anche le correzioni alla voluntary disclosure, cioè alla voluntary disclosure. Ma sempre sulle pagine di norme e tributi apprenderai che appunto c'è questa lista di contribuenti sotto, diciamo, sotto la lente della Guardia di Finanza. Sono 13.000, adesso cercheranno di capire come mai, pur avendo nelle condizioni non hanno aderito alla voluntary disclosure, come mai non hai aderito, caro Alessandro? Prepara una risposta convincente. Ecco, tra l'altro sappi che anche l'Unione Europea sta preparando una stretta proprio su banche, intermediari, professionisti che così consigliano comportamenti, ma come potremmo definirli, un po' troppo libertini dal punto di vista fiscale delle postazioni all'estero dei propri risparmi. Naturalmente è giovedì, ci sono le pagine di Casa 24, puoi scoprire in quali città conviene affittare e in quali invece converrebbe comperare, perché il differenziale di annualità necessario è più favorevole o meno favorevole. Ma poi ti voglio anche, scusa, devo fare un'interruzione, qui Radio Fisco. Oh. Sono in arrivo 5 decreti per completare il coordinamento delle nuove normative sui bilanci con le regole fiscali, tutti i particolari su norme e tributi. Io so che tu non hai capito, io nemmeno ho capito, ma non importa. Ma ti assicuro che chi deve capire ha capito, trova tutto naturalmente su norme e tributi. Non hai voluto mettere i tuoi due urini sulle banche venete, come hai visto dal Sole 24 Ore, ci sta pensando qualcun altro, addirittura Inteso. Per un urino. Chiaro. E poi in disordine ti segnalo il disegno di legge sulla concorrenza, meriterebbe un tuo contatore delle settimane, caro Alessandro. Vabbè, perché slitta ancora. Chiederemo a Calenda. Ah, ecco giusto, bravo, chiedilo a Calenda. E poi la Harley Davidson si vuole comprare la Ducati. Questo l'ho visto, interessante. Sì, avidamente immagino dalle pagine di Finanza l'hai letto, ecco, l'hai appreso. Leggendo avidamente scoprirai anche che i cinesi si stanno comprando pure il Parma. Quindi non siamo solo noi, cioè le squadre per cui noi tifiamo, caro Alessandro, ma adesso anche il Parma che finisce di proprietà cinese. Tutti i particolari su finanza e mercati oggi, da leggere sempre avidamente, e per intanto, caro Alessandro, traffico! Lo volontari di Scrasciur, che cavolo ordini! Mannaggia la puttana, spiegatevi bene! Faircam Air and Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta... Quegneun, affermit, venen si schengen, kenel, caste san drinka, valesh le giornel, e nen abiti idee come la lesce belle. Dialetto molfettese. Grande, dovete mandare le sigle dei vostri dialetti preferiti o dei vostri dialetti di provenienza al 349-238-6666 via WhatsApp in un audio bello come questo nostro ascoltatore. È bello il dialetto molfettese, se hai capito tutto soprattutto. Allora, che dire, c'è una notizia che è la notizia d'apertura di Repubblica, che al di là delle intese, possibili intese anche tra Forza Italia e Partito Democratico, racconta di un tentativo di avvicinamento che Forza Italia ha fatto con il PD per cambiare il codice antimafia. Liana Milella racconta tutta pagina 11, Forza Italia addirittura con Gianni Letta cerca di cambiare il codice antimafia. L'esplicita richiesta arriva al PD, che però con Zanda e Finocchiaro ribadisce che si tratta di un provvedimento strategico. Perché, scrive Repubblica, a preoccupare Forza Italia è una specifica previsione del codice, cioè la possibilità di applicare anche ai reati di corruzione le misure di prevenzione personale e patrimoniali. Nella lista dei reati c'è anche la corruzione in atti giudiziari, per cui è imputato a Milano nel processo Rubiter proprio Silvio Berlusconi. E allora, ieri, quando in Senato pareva un pomeriggio tranquillo anche in vista dell'interruzione dei lavori per i ballottaggi, tra i provvedimenti da discutere anche il codice antimafia, è arrivata questa iniziativa, racconta Repubblica, che è stata però stoppata dal Partito Democratico. Questo è quello che succede nei corridoi parlamentari. Diceva prima Mauro Meazza invece la questione delle banche, certamente importante, tutti i giornali aprono su questo, la questione bancaria, le ex popolari venete, perché c'è l'offerta per le banche venete da parte di Intesa. Sul tavolo c'è solo un euro più una lunga articolata lista di condizioni necessarie a salvaguardare il capitale presente e dividendi futuri. Questo racconta Marco Ferrando, tutti i dettagli sull'offerta. Però sulle banche io vi voglio segnalare una pagina della Verità di Giacomo Amadori, molto interessante, anche perché questo è il lato, come dire, del salvataggio. Poi ci sono tutti i risparmiatori della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Ebbene, è il racconto di Giacomo Amadori di un signore, si chiama Patrizio Miatello, 54 anni, di Onara, socio di un'azienda di trasporti che da mesi cosa fa? Raccoglie le storie di tutte le persone che sono di fatto fallite e anche con sofferenze personali di tutte le persone che hanno perso i soldi in queste banche venete. Dal 2015 è diventato una sorta di capopopolo Miatello, organizza la protesta con la sua associazione intitolata un condottiero medievale originario del suo paese, Ezzelino III da Onara. Da mesi, dice, passo le giornate al telefono a assistere alle persone disperate. I racconti che ci sono terribili, come quello della signora Velia, una bella donna, trucco leggero, pettinatura curata in una foto, e 8 mesi dopo una signora che in foto ha perso una ventina di chili, dimostra 10-15 anni di più, morta 9 giorni dopo l'ultimo scatto per un ictus, stremata dalla battaglia per riottenere 456.160 euro da Veneto Banca. Oppure la storia di Franco, responsabile commerciale di un'azienda alimentare, rimasto, che è il marito, rimasto ora da solo col figlio di 17 anni, peraltro malato. La storia del trevigiano Rino, imprenditore, ex leader mondiale nel settore dei cofani funebri, la cui azienda ha chiuso per fallimento un mese fa, lasciando a casa 60 dipendenti. Lui aveva quote da cooperativa trasformate in 900.473 euro d'azioni. La signora Paola, una delle storie più drammatiche, suo marito Adriano si è tolto la vita, si è sparato nell'officina meccanica vicino a Vicenza, avevano affidato alla Popolare Vicentina 85.000 euro andati in fumo. Insomma, tutte storie così che vengono raccolte da Patrizio Miatello e che oggi vengono raccontate dalla Verità sotto il titolo L'indebitato, il suicida, gli psicotici, storie di vittime delle banche venete. Come dire, c'è tempo ancora per qualcosa di cronaca? Beh, non ho letto, ma ve lo segnalo, è doveroso, è la prima intervista del presidente francese Macron, che rilascia un'intervista a 7 giornali europei, anzi 8, tra questi anche l'italiano Corriere della Sera. Stefano Montefiori: Macron, perché la mia elezione farà rinascere l'Europa. L'intervista è molto densa, corposa. L'Europa ha un destino comune, non è un supermercato. La chiave per ripartire è un'unione che protegga. L'intervista la trovate completa, pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. A proposito di Europa, voglio segnalarvi questa, sempre dal Corriere della Sera, ma molto colpito. La Commissione Europea vuole lanciare la sfida delle patatine. Sì, soprattutto il Belgio, in Belgio sono furibondi per questo, per le frites. Tipico piatto belga, le patate che prevedono una doppia frittura, prima da crude e poi da cotte per dorare l'esterno. Ebbene, la Commissione Europea ora propone una preparazione più sana. Vorrebbe imporre al Belgio che le patate debbano essere prima bollite e poi fritte, e non doppiamente fritte. Questo sta creando un putiferio in Belgio, perché la tradizione, la commissione vede questo come una cosa più sana, il Belgio vede questo come un attentato alle proprie tradizioni. Prima bollirle e poi friggerle, la disfida delle patatine, la trovate sul Corriere della Sera. Va bene, siamo all'ultimo articolo, la carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Eccolo qua, un'intera pagina della Stampa dedicata ai boom di falsi pentiti delle punturine del Botox, donne e uomini che fanno le punturine di nascosto. Ma chi se ne frega!